più, non cerco più, parlo di noi, e il mio grido, la vita cade giù. Cielo ed ogni libertà, io e te rubammo l'alba agli operai, cambiamo il volo degli uccelli su di noi, aprimmo mari e immense verità, e i nostri corpi ad ogni intimità. Tracciamo strade sulla pelle noi, da cui non torneremo indietro mai, e te, io e te diversi dall'umanità, sogno di noi che non avremo più l'età, perché ci siamo amati amore mio, se adesso abbiamo gli occhi dell'addio. Non domandarmi perché non lo sai neanche tu, io voglio credere in quelli che amo di più, io e te. Soffro